evidente che Bologna non può tollerare una cosa di questo genere, non può tollerare le menzogne dopo che è stata ferita, gravemente ferita, in una maniera, perlomeno per me, che a quei tempi ero vivo da questo attentato terroristico che ha ammassato 85 persone, ferite 200 alla stazione di Bologna, per non parlare dei due attentati sui treni a pochi chilometri da qui, il 904, l'Italicus e così via, a San Benedetto Val di Sambro. Sono ferite che fanno ancora male, ma molto male. Non è un caso che tutti i 2 agosto la piazza, per quanto possibile, è sempre piena di bolognesi che ricordano questo fatto. Ora, che questi bugiardi, perché bugiardi sono, e fascisti ripropongano la menzogna di Licio Gelli, il depistaggio che Licio Gelli, che come ha saputo ultimamente è stato il finanziatore della strage, con milioni versati al gruppo di terroristi, Licio Gelli è quello che propose questa depistaggio già tantissimi anni fa, indicando una finta pista palestinese, parlando del terrorista Carlos e non mi ricordo più che altro, insomma. Questo fumetto ripropone la stessa menzogna, lo ripropone malgrado i fatti siano accertati già in larghissima parte giudiziariamente, validati dalla Corte di Cassazione. Non siamo al processo in primo grado, dove qualcuno potrebbe parlare di bisogno di permettere all'imputato di scagionarsi. No, i fatti sono accertati, la Cassazione li ha confermati, sono scolpiti nella pietra, insomma. E poi anche la storia ci spiega bene che questi sono attentati fascisti, non abbiamo bisogno neanche del grado giudiziario per saperlo. Tutte le cosiddette piste alternative sono state già escluse dalla magistratura, dalle aule di tribunale, perché inconsistenti, eppure questi personaggi continuano a riproporle. Però quello che è grave è che possano riproporle in uno spazio pubblico. Assolutamente, infatti questo è il grave. Ognuno può avere le idee che vuole, senza diventare voltariani, falsi voltariani, ognuno può avere le idee che vuole. Ma che Bologna, città antifascista, che ha un regolamento comunale che chiede la dichiarazione di antifascismo a chiunque chieda una sala comunale, la conceda a questi mentitori, è una roba assolutamente indecente. Tu hai chiesto conto anche su Twitter, insomma, insieme a te anche altre persone, al sindaco Virginio Merola, ti ha risposto fino a questo momento? Ora, finora no, bisogna dire che Virginio Merola fino a ieri era ammalato per una sciatica che non gli ha permesso neanche di essere alla festa dell'unità il 9 di settembre, però da ieri è tornato in pista e conto che gli sia stato dato conto di tutto quello che abbiamo scritto su Twitter. Io, oltre a lui, ho parlato con Paolo Bolognesi, l'onorevole Paolo Bolognesi, presidente del comitato del 2 agosto, e gli ho fatto presente la cosa. Bolognesi non era al corrente del fatto che questo fumetto fosse di derivazione diretta di organizzazioni come Casa Pound e Forza Nuova, pensava più a una cosa di derivazione da parte dei legali e non sapeva che fosse così facilmente bloccabile. Lui ha detto che si sarebbe occupato di chiedere conto al quartiere che ha la responsabilità di quella sala. Quindi quello che chiedi e chiedono anche altri cittadini bolognesi è che questa presentazione venga annullata, sostanzialmente. Che venga revocata la sala, perché la città di Bologna non può concedere questa sala, non può concedere aiuti ai bugiardi, ai fascisti.